peanuts, all peanuts. All peanuts, all peanuts. All peanuts, all peanuts. Salt Peanuts. Jazz on Megahertz. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salt Peanuts. Oggi diamo un'occhiata a alcune novità che fanno parte, diciamo, della storia delle attività di Chicago, una città che è piena di particolari attività, non soltanto legate alla tradizionale ormai ASM, ma che si propone con voci anche molto diverse tra di loro. Infatti il disco che ascolteremo per primo è di un giovane musicista, un trombettista, quindi dell'ultima generazione, che propone una musica molto particolare, poco definibile come stile, semmai assimilabile alla grossa tradizione, all'importante tradizione della musica orchestrale. Può far ricordare in alcuni momenti Maria Schneider o comunque questo tipo di scrittura piuttosto sofisticata, e si serve oltretutto di una sezione d'archi, ed è un lavoro questo, che è un'opera prima peraltro, piuttosto ambizioso e con risultati, devo dire, eccellenti. È stata una sorpresa notevole quella di constatare anche un linguaggio così diverso da quello che normalmente accade nell'area di Chicago, e poi le sue qualità come trombettista e soprattutto la capacità di scrittura, di tessitura orchestrale, di narrazione. È una sorta di suite questa, composta di vari momenti, sono 13 brani, tutti composti da Eric Weiss, ma hanno molti temi che si ripetono, si rincorrono, si ritrovano poi nei momenti successivi, sempre rielaborati con una tessitura diversa. E il risultato è decisamente positivo, a mio avviso, e intrigante. Ascoltiamo un paio di brani. Quello iniziale, il lavoro intitolato Method or Magic, sono diversi musicisti che vi lavorano, direi che prevalentemente l'obiettivo è fissato sulla tromba del protagonista, quindi di Evan Weiss, e anche però sul pianoforte di Yuri Levicek, notevole pianista, ottime qualità. Poi sono diversi altri, ma sicuramente non sono nomi conosciuti, sono piuttosto musicisti di fila, ma con qualità anche individuali notevoli. Ascoltiamo il brano d'apertura, che è Method or Magic, che appunto dà anche il titolo all'intero lavoro, poi anche un altro brano successivo, Circuitus Circuits. Thank you. suggestioni che interessano Evan Weiss, la sua tromba, provengono da più parti, si riascoltano musiche per film, oppure anche un certo sinfonismo americano che è stato soprattutto prevalente negli anni 50, ma comunque è una tessitura interessante e soprattutto dà prova Evan Weiss di avere un forte carattere espressivo nel suo fraseggio, e poi è sostenuto degnamente dal pianoforte di Jurij Levicek. Ecco, ma anche la scelta timbrica della formazione è particolare, più sinfonica, è più legata a quello che può essere un linguaggio sinfonico, oltre naturalmente alla batteria di Ross Peterson e al contrabbasso di Ryan Egler. Sono un violoncello di Sean Hamilton, Emeralda Texon alla viola e poi il violino di Frederick McKee. Ecco, poi si aggiungono una voce in alcuni, la voce di Idegun Guidrer in alcuni brani, in alcuni momenti, poi il flauto di Julie Kim Walker, il clarinetto di Chris Bullock e il fagotto di Jagger Lloyd. Quindi una formazione che anche nei fiati sono più legati al legno che al sax, non è presente alcun sax in questo contesto. Alle percussioni si aggiunge anche forse il nome più conosciuto, Michael D'Angelo. Ascoltiamo un altro paio di momenti di questa bella suite titolata, lo ricordo, Math or Magic, diretta ed eseguita da Evan Weiss. Thank you. Thank you. Questo era Evan Weiss, trombettista Evan Weiss, con la sua opera prima, il suo primo disco come leader, Math or Magic, una bella sorpresa di una capacità compositiva interessante, notevole, è una delle voci di Chicago, sicuramente non è tra le più incisive, diciamo, di quello che è il territorio di questa area, un musicista che peraltro attualmente va per la maggiore, che non ha neanche bisogno di particolari presentazioni, è un altro trombettista un po' più anziano, si tratta di Rob Mazurek, che ha anche la capacità di proporre nuovi dischi, nuovi progetti, nuove esperienze testimoniate poi in compact, costantemente su scale diverse, su proposte nuove, e questa uscita di recente è uscita ufficialmente al 20 di aprile, è l'ultimo lavoro per il progetto chiamato Exploding Star Electro Acoustic Ensemble. Quindi una formazione semi-orchestrale che cambia anche in diverse occasioni i suoi componenti, che ha un punto di riferimento stabile di alcuni musicisti, come per esempio Nicole Mitchell al flauto, e che percorre una sua strada di ricerca. Direi che questo lavoro, quest'ultimo lavoro intitolato The Space Between, non è particolarmente nuovo, interessante, dà un po' la sensazione di una fase di passaggio. Consiste in una sorta di unicum, di suite di 40 minuti, più o meno di 40 minuti, senza alcuna interruzione, dove viene artificiosamente suddivisa in parti da 5 minuti l'una, con titoli diversi, che sono però una sorta di pretesto per suddividere questa magma sonoro, che appunto ha una continuità assoluta, con momenti anche interessanti, ma devo dire che a mio avviso la parte più interessante è proprio la tensione che riesce ad essere sprigionata da questa sorta di magma elettronico e percussivo. Sono, oltre appunto, come dicevo, alla tromba di Mazurek e all'elettronica, perché naturalmente Mazurek si diverte anche con questi oggetti, Nicole Mitchell al flauto, poi in alcuni momenti alla voce Damon Locks, e anche all'elettronica, a pianoforte elettrico Jeff Kowalkowski, poi ecco un collaboratore costante alla batteria, John Enrodon, poi alle percussioni Cary Biolo, e poi all'elettronica Matt Bowder e Guilherme Granado. Sono musicisti che si frequentano da tempo, fanno parte di questa sorta di grande famiglia allargata della ACM, e che appunto riescono poi a proporsi con progetti diversi, volta per volta identificando un coordinatore. In questo caso appunto l'orchestra, l'Exploding Star Electro Acoustic Ensemble, è guidato appunto, come sempre, da Rob Mazurek. Ascoltiamo i momenti centrali, sono due momenti consecutivi collegati tra di loro, quindi una decina di minuti, che è anche il momento che dà il titolo a questo progetto, The Space Between. Ascoltiamo. We'll be right back. Questo era l'ultimo lavoro uscito da parte di Rob Mazurek con la Exploding Star Electroacoustic Ensemble, un disco intitolato The Space Between, un disco doppio per la verità, che ha sia appunto 40 minuti di compact disc e un video, un DVD allegato. Ed è una testimonianza di questa continua evoluzione, di questo continuo movimento di Mazurek che si muove su progetti diversi e in situazioni diverse, sempre con i soliti collaboratori, ma cercando di individuare strade nuove, strade diverse. Un'attività intensa, della quale poi rimane prova discografica, che sono poi, questo è l'ultimo, ma sicuramente non sarà l'ultimo per quest'anno. E rimanendo sempre nell'ambito diciamo, della ACM, quindi di questa associazione guidata peraltro da Nicole Mitchell, che era anche al flauto nel lavoro di Mazurek, un collaboratore anche dell'Exploding Star, dell'orchestra di Mazurek e anche di altri musicisti come per esempio Mike Reed, batterista, quindi diciamo la parte più solida della ACM, e un sassofonista, Greg Ward. Greg Ward collabora appunto in varie formazioni, in vari progetti, in varie situazioni di questa ACM e già da qualche tempo, almeno da una decina d'anni, è abbastanza giovane, ma non giovanissimo, ha sempre svolto una funzione di sideman di alto livello. Peraltro, l'avevo notato da tempo come un ottimo sassofonista. È uscito qualche tempo fa, ormai da qualche mese, da diversi mesi, un disco in trio che lo vede, credo che sia il primo del quale anche leader, lo vede come protagonista, come autore, un disco uscito per la Thirsty Ear Recordings, un'etichetta interessante che si muove anche nell'ambito della musica contemporanea, insomma di una certa avanguardia americana. Il disco in trio, appunto, classico, Greg Ward al sax contralto, Joe Sanders al contrabbasso e Diamond Reed alla batteria. Decisamente bravissimi anche Joe Sanders e Diamond Reed, come peraltro è necessario in una situazione di trio, è anche ambizioso come inizio, e il risultato, direi, decisamente soddisfacente. Sono direi diversi brani che hanno un loro carattere, ognuno ha una sua autonomia, si riescono a proporre con una certa personalità. E ascoltiamo un paio di queste composizioni, sono le ultime due. E si nota evidentemente una forte influenza della musica di Steve Coleman, della bass music, sicuramente anche questa fa parte poi di questa grande vitalità dell'area chicagoana, e il risultato è appunto, potrete ascoltarlo, è a mio avviso di ottimo livello. Thank you. Questo era Greg Ward, il sassofono contralto che abbiamo ascoltato era quello di Greg Ward, sassofonista dell'area appunto della ACM di Chicago, che si vede protagonista di questo disco intitolato Phonic Juggernaut, ed è un disco uscito per la 30 Year, un disco decisamente esteticamente ben riuscito. Sono temi piacevoli, belli, eseguiti bene, con una, tra l'altro con una qualità musicale elevata, oltre al sassofono di Ward, anche il contrabbasso di Joe Sanders e la batteria di Diamond Reed brillano in questo contesto. E appunto i due brani che abbiamo ascoltato sono piuttosto rappresentativi di questa piacevolezza nella costruzione dei temi e questa capacità solistica di svilupparli con compiutezza. Con l'ultimo brano peraltro è una sorta di parafrasi del Bolero di Ravel, e il risultato è decisamente piacevole e di ottima qualità musicale. Questo era anche l'ultimo ascolto per oggi, questa occhiata su Chicago si conclude. Vi ricordo che potete riascoltare la trasmissione in podcast nel nostro sito radiocittafujiko.it, nella sezione musica. Troverete poi anche tutte le informazioni discografiche su quanto abbiamo ascoltato. Questo è tutto, ci sentiamo alla prossima. Sal peanuts. Jazz on megahertz. Sal peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.